GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale a Trieste, in via Carnaro, tra le zone di Campanella e Catinara. Vittima un 60enne che ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro un albero. Strada chiusa al traffico. Incidente anche a Udine tra un SUV e una macchina della polizia in fase operativa che si è schiantata contro un palo. Ci sono dei feriti, pesanti disagi alla circolazione. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 622.000 euro al Pordenone Calcio, sulla società calcistica presieduta dall'imprenditore Mauro Lovisa, attualmente in liquidazione dopo il fallimento dello scorso anno. La richiesta della procura dopo che gli accertamenti avevano riscontrato mancati versamenti di IVA e ritenute fiscali a partire dal 2019. Riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, l'indagine della procura di Treviso nei confronti di due imprenditori locali che avrebbero portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento con un volume d'affari annuo di circa 2 milioni di euro e 11 punti vendita, alcuni dei quali in regione. Ancora atti vandalici nel parcheggio dell'ospedale triestino di Catinara, riservato ai dipendenti. La notte scorsa, tre automobili, appartenenti ad alcuni dipendenti che smontavano il turno di notte, sono state vandalizzate. I lavori del Consiglio regionale in quarta commissione, le novità del tracciato viario Gronda Nord di Pordenone sono state illustrate dall'assessore regionale Infrastrutture e Territorio Amirante e dai progettisti dell'opera. È piena querela Udine in merito alla situazione dei parcheggi. I disturbi dell'apprendimento come la dislessia sono responsabili di un terzo degli abbandoni scolastici, ma i neuropsichiatri si trovano spesso di fronte a richieste di diagnosi superiori alle reali necessità. Ne abbiamo parlato con il primario di neuropsichiatria del Burlo di Trieste. La Triestina ha ufficializzato l'assunzione di Pep Clotet con l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico catalano ha cominciato il suo lavoro sul campo già oggi e sarà presentato alla stampa. Questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearzi e Daniele Lettig a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 21 ottobre. In apertura dunque la cronaca, come abbiamo sentito c'è stato un incidente mortale accaduto questa mattina a Trieste in via Carnaro tra le zone di Campanelle e Cattinara. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro un albero, rovinando poi sull'asfalto. All'origine potrebbe esserci stato un malore, ma la dinamica è ancora tutta da verificare. La circolazione è stata a lungo chiusa tra via Brigata Casale e strada di Cattinara per permettere i rilievi. L'incidente è accaduto poco dopo le 8 in via Carnaro. Il Centauro stava percorrendo la strada diretto verso l'altipiano quando, poco dopo la Italpetroli, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un albero. A dare l'allarme un automobilista che si è accorto del mezzo riverso a bordo strada con a terra il conducente esanime. Immediati soccorsi, ma per l'uomo di 60 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, non c'era più nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente mortale, al vaglio della polizia municipale presente sul posto. Tra le possibili cause, un malore del Centauro che avrebbe così perso il controllo del mezzo. Non sarebbero presenti segni di frenata sull'asfalto, nessun altro mezzo coinvolto. Chiuso per 3 ore il tratto di via Carnaro tra via Brigata Casale e strada per Cattinara. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. E c'è stato un grave incidente in mattinata anche a Udine, coinvolto un SUV e una macchina della polizia in fase operativa che si è schiantata contro un palo. Ci sono alcuni feriti, ma per i particolari diamo la linea ad Armando Mucchino. Pauroso incidente della strada a Udine poco dopo le 11 di questa mattina in piazzale Cavedalis, zona centro studi. Coinvolte una volante della polizia e un'autovettura monovolume di S5. La dinamica dello scontro è ancora in via d'accertamento da parte della polizia locale del capoluogo friulano. Secondo quanto si è potuto apprendere, la volante in fase operativa, quindi con sirene lampeggianti accesi, stava attraversando il piazzale proveniente da via Giovan Battista Bassi. Da via Marco Volpe, porta Villalta, è arrivata la vettura, che è stata centrata nella parte anteriore dall'auto della polizia, che poi ha finito la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per fortuna si parla solo di feriti, i due agenti della volante e due donne a bordo della vettura. In zona sono subito confluite 3 ambulanze, parecchi equipaggi della polizia locale e i vigili del fuoco. Pesanti rallentamenti del traffico in quello che è uno degli snodi nevralgici della viabilità cittadina. Secondo le prime informazioni sanitarie, i feriti non sono in gravi condizioni. Grazie Armando Mucchino e continuiamo con la cronaca. Sequestrati 622.000 euro al Pordenone Calcio, società attualmente in liquidazione giudiziale. A eseguire il sequestro su ordine del Tribunale di Pordenone sono stati i finanzieri del comando provinciale. Le indagini scattate a seguito di una prima denuncia dell'Agenzia delle Entrate per l'omesso versamento di IVA per l'anno 2019 hanno evidenziato la grave crisi finanziaria della società, tale da convincere la Procura a chiedere al Tribunale la dichiarazione di stato di insolvenza e l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale. Si è anche scoperto che la società non aveva versato l'IVA nemmeno nel 2021, anno in cui, come per il successivo, aveva anche evitato di versare le ritenute fiscali, per un ammontare complessivo pari a circa 4 milioni di euro. Il Pordenone Calcio ha terminato l'attività professionistica nel 2023 con la rinuncia ad iscriversi al campionato di Serie C. A ottobre, sempre del 2023, è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società e lo scorso 24 giugno la federazione ha revocato l'affiliazione al club. Riguarda in parte anche il Friuli Venezia Giulia l'indagine della Procura di Treviso nei confronti di due imprenditori locali che avrebbero portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento con un volume d'affari annuo di circa 2 milioni di euro e 11 punti di vendita, alcuni dei quali anche nelle province di Trieste, Udine e Gorizia. I due sono indagati per bancarotta fraudolenta. Viene loro contestato l'aumento del volume dei debiti da 1,3 a 2,4 milioni tra il 2014 e il 2020, senza chiedere l'ammissione agli strumenti di risoluzione della crisi aziendale, oltre a distrazioni patrimoniali per più di 1 milione di euro in favore di altre società da loro stessi gestite. Ancora atti vandalici nel parcheggio dell'ospedale triestino di Cattinara, riservato ai dipendenti, lo comunica Asugi. La notte scorsa, si legge in una nota, tre automobili appartenenti ad alcuni dipendenti che smontavano il turno di notte sono state vandalizzate. I danni riportati sono ingenti, pneumatici bucati, parabrezza, lunotti e fari rotti e targhe rubate. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili di quanto accaduto. Asugi fa sapere di aver prontamente attivato tutte le procedure assicurative per aprire il sinistro e che potenzierà il sistema di videosorveglianza. L'azienda esprime vicinanza ai professionisti che durante il turno di notte hanno subito ingenti danni alle loro autovetture private. Nei giorni scorsi personale della Questura di Trieste ha eseguito l'accompagnamento al centro di permanenza per i rimpatri di Roma di un cittadino egiziano di 20 anni con a carico numerosi precedenti di polizia. Il questore, alla luce delle evidenze emerse in sede di accertamenti dal prefetto di Trieste tramite l'accompagnamento dello straniero in quanto irregolare sulle territorio nazionale è pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica della città. Il cittadino egiziano è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria ed è ora trattenuto presso il CPR in attesa di rimpatrio. È stato presentato poco fa a Udine dal governatore Fedriga il programma di eventi regionali per Go 2025, capitale della cultura Gorizia e Nova Gorizia, capitali della cultura europea. Il significato di pace è stato sottolineato della manifestazione è stato sottolineato anche dal vicegovernatore Anzil, assessore alla cultura, in collegamento dal padiglione Italia alla Fiera Internazionale del Libro Bookmesse di Francoforte, dove la manifestazione Go 2025 è presente con uno stand illustrativo. E ora i lavori del Consiglio regionale. In quarta commissione le novità del tracciato viario Gronda Nord di Pordenone sono state illustrate poco fa dall'assessore regionale Infrastrutture e Territorio Amirante e dai progettisti dell'opera. Non è un progetto destinato solo a sgravare l'intensa quantità di traffico che intasa la Statale 13, ma sarà una infrastruttura destinata principalmente a raccordare i siti produttivi dell'Interland pordenonese, per la gran parte insediati a nord dell'autostrada A28 e della stessa Pontebbana, perché area non esondabile a differenza della zona più a sud. A chiarirlo stamani, in quarta commissione del Consiglio regionale a Trieste, l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante, nel corso dell'audizione sul progetto della Gronda Nord di Pordenone, un progetto a cui la Giunta regionale ha dato il mese scorso un primo ok per lo studio di fattibilità con l'affidamento dell'incarico di progettazione del primo lotto tra Fontana Fredda e Pordenone Zona Paradiso per un valore di 30 milioni di euro. Il progetto complessivo prevede poi il proseguimento fino a Zoppola con il collegamento alla Cimpello Sequals, ha chiarito Amirante. Quattro le varianti al tracciato complessivo tuttora allo studio. A illustrarle i due ingegneri progettisti Fiorella Onsel e Matteo Bordugo, anche loro auditi in mattinata dalla quarta commissione del Consiglio regionale. Perplessità sono state espresse dalle opposizioni Andrea Carli, PD, e Marco Putto, Patto per l'Autonomia. Quest'ultimo in particolare non a prioristicamente contrario all'opera, ha tenuto a specificare. Servirebbero, hanno sottolineato, più coinvolgimento dei territori e maggiore attenzione al potenziale impatto ambientale della Gronda. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12.40 siamo al tempo, cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, a Udine e Pordenone 18,5, a Gorizia 18 gradi, a Forni di Sopra 16, a Tolmezzo 15 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 13 e 5 decimi, a Tarvisia 13 gradi, a Sappada 12, sul Monte Lussari 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 11 gradi e 5 decimi, sulla costa a Lignano 17 gradi, a Grado 17 gradi, scusate, a Lignano 16 gradi e 5 decimi. E queste le previsioni dell'ARPA. Oggi su pianura e costa avremo cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo poco nuvoloso, variabile nel pomeriggio, su Alpi e Prealpi carniche. Le esportazioni del Friuli Venezia Giulia verso la Germania, concentrate nei settori della siderurgia, dei macchinari, dell'agroalimentare e della gomma, nel primo semestre 2024 hanno subito un calo tendenziale del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, molto superiore rispetto alla media nazionale, che è del 6,7%. La perdita si aggiunge a quella del 2023, quando il Friuli Venezia Giulia dovette registrare una contrazione dell'export del 14,1% su quel mercato. Sono i dati che emergono dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Udine su elaborazione di dati Istat. E considerando per i primi sei mesi del 2024 una perdita di valore dell'export verso la Germania di 130 milioni di euro, continua il report del Centro Studi, le imprese del Friuli Venezia Giulia stanno perdendo 720 mila euro al giorno di vendite sul mercato tedesco e a livello italiano la perdita è stimata in 12 milioni giornalieri. Per gli imprenditori agricoli è sempre più importante conoscere al meglio come comunicare il proprio prodotto senza improvvisazioni. Per rispondere a questa esigenza sono nati i corsi per rafforzare la competitività aziendale organizzati da Confagricoltura regionale e tenuti da Francesco Scalettaris, esperto in comunicazione e marketing del vino, che inizieranno oggi alle 18 all'azienda Conte d'Attimi Smaniago di Buttrio. E piena querela Udine in merito alla situazione dei parcheggi. Il sindaco De Toni rimette la piazza al centro, ovvero il mercato ritorna in piazza 20 settembre. I commercianti escono soddisfatti dall'incontro in municipio dopo aver discusso della questione dell'allargamento della ZTL e della pedonalizzazione dell'area che comprende anche piazza Garibaldi e via Poscolle. Il comune trova con loro l'intesa anche sulla ZTL a fascia oraria. Sarà dalle 8 alle 13 come succede ad esempio a Parma e sui parcheggi. Saranno recuperati circa 45 posti auto nella zona ed un'altra quarantina poco fuori il centro città, in particolare quelli del cinema Visionario. Il piano prevede anche una serie di iniziative per piazza 20 settembre in vista delle festività natalizie. Lo conferma Bledar Zutai, referente del gruppo dei commercianti, sottolineando all'uscita dell'incontro con il sindaco come questa possa essere una strada da seguire anche per altri commercianti di Udine, ovvero quella del dialogo. Siamo convinti di poter sviluppare un lavoro molto importante insieme all'amministrazione comunale, che oggi ha dato un segno forte ed importante della vicinanza ai commercianti. Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo, perché è un obiettivo che ci eravamo preposti già da prima e la nostra azione non è mai stata un'azione di protesta volta alla mera protesta senza un obiettivo chiaro. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È convocato per oggi alle 14.30 al Consiglio Comunale di Trieste, che dovrà discutere 63 ordini del giorno relativi alla delibera che ha dato l'ok la scorsa settimana al piano per la riqualificazione del Porto Vecchio. Tra gli altri punti in agenda, la richiesta della minoranza di introdurre una commissione speciale sulla gestione del servizio idrico integrato e la discussione sulla delibera relativa all'affidamento della gestione del nuovo asilo costruito nel quartiere di Roiano. A Trieste in primo piano anche la futura destinazione degli spazi dell'ex caserma di Via Rossetti, destinati a ospitare un campus universitario e insediamenti scolastici. La superficie totale dell'ex caserma si estende su ben 87.000 metri quadri. La piazza d'armi è più grande di Piazza Unità. Su di essa si affacciano 4 edifici che tra un paio d'anni ospiteranno alcune scuole superiori. Entro l'anno l'ex complesso militare passerà dal Fondo Investimenti per la Valorizzazione, gestito dalla SGR del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, all'ente di decentramento regionale di Trieste per un costo di 15 milioni di euro stanziati dalla finanziaria regionale dello scorso anno. Questa mattina si è svolto un sopralluogo, presente l'assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica Roberti e la direttrice generale dell'EDR Roberta Chericuzio con i rappresentanti della CDP Real Asset. Oltre alle palazzine per le superiori, uno studentato con 50 posti gestito dall'Ardis, 2 palestre, un parcheggio con 400 stalli con accesso da via Revoltella, spazio anche per l'archivio centrale scolastico. Attraverso l'EDR verranno così soddisfatte innumerevoli esigenze del comune di Trieste. L'ultimo amaina bandiera in via Rossetti c'è stato nel 2008. A distanza di anni lo sfalcio del verde è stato intenso. Oltre le parti esterne, i lavori di riqualificazione inizieranno già l'anno prossimo. Contemporaneamente, a settembre 2025, verranno posizionati i primi elementi prefabbricati che permetteranno l'insediamento dei primi studenti. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. I disturbi dell'apprendimento come la dislessia sono responsabili di un terzo degli abbandoni scolastici, ma il modo in cui è strutturato il sistema per il riconoscimento del disturbo attualmente fa sì che i neuropsichiatri si trovino di fronte a richieste di diagnosi superiori alle reali necessità. Ne abbiamo parlato con il primario di neuropsichiatria del Burlo di Trieste. Una difficoltà che sembra insormontabile nella lettura, nella scrittura o anche nel fare calcoli succede ai bambini con disturbi specifici dell'apprendimento. La dislessia è il più diffuso, ma ci sono anche la discalculia, la disgrafia, la disortografia e la difficoltà di comprensione del testo. Se non riconosciuti, questi disturbi sono responsabili di un terzo degli abbandoni scolastici. Oggi però il Burlo, come altri ospedali, si trova di fronte a un numero eccessivo di bambini inviati dai pediatri a fare i test di diagnosi. Marco Carrozzi, dirigente di neuropsichiatria al Burlo Garofolo di Trieste. Se noi prendiamo una popolazione scolastica, possiamo aspettarci nei primi anni di scuola un 10-15% di bambini che hanno difficoltà scolastiche, ma non tutti questi bambini hanno un disturbo specifico di apprendimento, parliamo del 3,1. Quindi dovrebbe essere eseguito il rinforzo didattico in ambito scolastico, i bambini resistenti poi devono essere inviati all'osservazione dei clinici. La scuola deve essere messa in grado di poter fare questa cosa. Tra chi arriva all'osservazione al Burlo di Trieste ci sono anche molti bambini stranieri. Allora, i bambini bilingui, parliamo di bambini stranieri naturalmente, inseriti nella scuola primaria dovrebbero essere valutati dai clinici non prima di 2 anni dopo l'esposizione alla lingua italiana. E anche in questo caso andrebbe fatto per 6 mesi un potenziamento e solo in quel caso andrebbero poi inviati all'osservazione dei clinici. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport calcio. La Triestina ha ufficializzato l'assunzione di Pep Clotet con l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico catalano, che ha cominciato il suo lavoro sul campo già oggi e che sarà presentato alla stampa alle 18 allo Stadio Rocco, ha mosso i primi passi in carriera a Barcellona, guidando prima il Cornellà e poi passare all'Espagnol, club con il quale ha allenato l'Under 18, conquistando il titolo di campione di Spagna, guidando successivamente la formazione B. Ha successivamente maturato esperienze in Svezia e Norvegia con Malmo, Halmstad e Viking, tornando poi in patria per allenare il Malaga, e successivamente si è trasferito nel Regno Unito ricoprendo l'incarico di vice allo Swansea City, al Leeds, al Birmingham City e di capo allenatore all'Oxford United nel 2017-2018, così come al Birmingham City nella stagione seguente. Clotet ha poi allenato in Serie B in Italia, al Brescia, alla Spal, prima dell'ultima esperienza in Russia sulla panchina della Torpedo Mosca. Il basket, dopo 3 vittorie consecutive, non arriva al poker per la Pallacanestro Trieste, sconfitta al Pallarubini da Reggio Emilia per 85-97. In Serie A2, invece, doppia vittoria in rimonta all'ultimo secondo per le squadre regionali, in 2 match al Cardiopalma. La Udine sotto per gran parte della partita, al Carnera batte l'Urania Milano per 75-74. Sentiamo il commento a fine gara del coach bianconero Adriano Vertemati. È stata una partita stranissima perché ci eravamo preparati per 2 giorni ovviamente sul loro giocatore più importante, Gentile, che poi all'ultimo secondo abbiamo scoperto non avrebbe giocato. Non abbiamo attaccato bene, non abbiamo sempre trovato il modo, la partita si era messa in una maniera che sembrava non si potesse girare, invece con l'utilizzo un po' della zona matchup abbiamo un po' rotto il ritmo, ci siamo riavvicinati, preso un po' di fiducia e poi gli episodi finali sono stati gestiti perfettamente perché i ragazzi hanno eseguito alla perfezione la rimessa laterale dopo il time out con la bomba di Mirza, quasi già recuperavamo subito il pallone e poi due stop, il canestro di Cesana e ancora Icchi che trova Stefanelli per la bomba della vittoria. Qualche segnale dal cielo magari è arrivato chiaro oggi. Una vera e propria impresa invece è quella di Cividale, che rimonta a 7 punti di distacco nell'ultimo quarto e va a espugnare il campo dell'imbattuta Rimini per 90-89. Gran protagonista della partita l'argentino Lucio Redivo. Sentiamo il commento del coach dei friulani, Stefano Pillastrini. Beh, diciamo che non ci è andata male. Alla fine l'abbiamo vinta veramente sugli episodi, però penso che sia stata una prova di una solidità importante. La cosa che di solito le statistiche le guardo quasi distrattamente, lo dico insomma, ma quasi, però quando fai un primo quarto da 15-3 a rimbalzo e finisci vincendo 35-29, capisci quanto a livello agonistico la squadra sia cresciuta durante la partita, perché contro una squadra che ha un pacchetto di lunghi o comunque di atleti, perché esterni come Anumba, Marini, atleti perché per questo campionato sono i reali, stravinci in confronto al ribasso dei secondi tre quarti, vuol dire che la squadra ha reagito con una forza proprio di carattere, di volontà. Pallavolo: nel terzo turno del campionato di Serie 1 femminile arriva il primo successo stagionale per la Cilia Talmassons, che passa a Bergamo per 3-7-1, friulane nel gruppo delle ottave con 3 punti. Una vittoria di carattere e qualità nel campionato più bello del mondo. Sul parquet di Treviglio contro Bergamo, le ragazze di Barbieri dimostrano di essere attrezzate per la categoria e di poter lottare degnamente per una salvezza che rimane l'obiettivo fondamentale della stagione. Primo set sotto il segno del massimo equilibrio con le due squadre punto a punto. Bergamo arriva al set point sul 24-22, ma Talmassons rimonta e chiude sul 27-25. Seconda partita con Bergamo subito avanti, che controlla efficacemente il tentativo di rimonta, finisce 25-20. L'equilibrio prosegue nel terzo set, le due squadre arrivano testa a testa fino al 22-22. Alla fine la risolve Eze con il muro che vale il 25-23. In apertura della quarta partita, mini break decisivo in apertura per Talmassons. A consolidarlo ci pensano poi Krajduba e soprattutto Scherban. Il muro decisivo è firmato da Gannar e vale il 25-19, che chiude i giochi. Jana Scherban, eletta miglior giocatrice del match, non vuol sentir parlare di vittoria storica e spiega che quella di oggi è solo la prima, sperando che successi storici arrivino più avanti. Sulla stessa linea coach Barbieri: ci sono state fasi di gioco un po' disordinate, dice il tecnico, ma ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi per le gare a venire. Domenica si torna a giocare in casa contro Vallefoglia. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. 1954, Trieste dopo l'America, è questo il titolo del ciclo di iniziative organizzato da oggi a mercoledì dal Circolo della Cultura e delle Arti, per celebrare il 70° anniversario del ritorno della città all'Italia. Una mini rassegna che prevede conferenze, concerti e proiezioni di film. Il primo, oggi alle 18 al Teatro Rossetti, sarà un documentario sulla vita degli americani a Trieste durante l'AMG. Inizia oggi con la prima prova nelle sale del Conservatorio Tartini di Trieste la 28ª edizione del Premio Pianistico Internazionale Stefano Mariza, intitolato al giovane concertista allievo del Tartini, scomparso prematuramente nel 1996. In gara 12 pianisti selezionati dalla giuria del premio, che sarà consegnato dopo la prova finale in forma di concerto pubblico prevista giovedì sera. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.